Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, puntata speciale legata all'iniziativa Disperati Mai. La crisi sta cambiando la nostra vita, il nostro modo di pensare, di progettare, sta mettendo in discussione le nostre certezze, le nostre priorità. Siamo confusi, impauriti, arrabbiati, sfiduciati, ma disperati mai. Abbiamo bisogno di confrontarci, di non sentirci soli, di condividere le nostre emozioni. Abbiamo bisogno di dire, di sentirci dire, andiamo a creare quel futuro che non c'è, facciamolo insieme, io sono con te. A molti di voi questa frase tornerà familiare, vi sembrerà di averla già sentita. L'avete letta sul nostro Daily Lab in uno dei post di Claudio Belotti, coach che è qua in studio con me. Bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Dottor Belotti, la situazione è difficile, ci sono tante persone demotivate, altrettante arrabbiate, ma dietro questi sentimenti, questi stati d'animo, anche se nascosta, sì, potremmo trovare la speranza e la voglia di reagire e di riprenderci un po' in mano. Sì, io dico, torniamo un po' alle vecchie abitudini che hanno fatto questo popolo e questo paese, un grande paese, che è quello di aiutarci l'un l'altro. Una delle cose che io noto è che ci sono persone che sono demotivate o arrabbiate, sono entrambi due cose non belle, e si circondano di persone demotivate e arrabbiate come loro, oppure ascoltano cose che le fanno arrabbiare ancora di più. Che la situazione sia difficile è oggettivo, non è inutile nasconderci, ma proprio perché è difficile dobbiamo cercare le risorse che ci mancano, magari nei familiari, nei colleghi, nelle associazioni di categoria, nel vicino, per gli imprenditori, nei dipendenti che ci credono, nei dipendenti, negli imprenditori che ci credono ancora, e insieme fare quello che abbiamo fatto già in passato, storicamente, che è superare un momento molto difficile. Quindi, dottor Belotti, l'aiuto che può dare oggi ai nostri ascoltatori, che sono invitati a chiamarci al nostro numero verde 800 24 00 24, è quello di metterli nelle condizioni di individuare risorse e capacità su cui far leva per rimettersi in gioco, per guardare la situazione da un'altra prospettiva. Tutto questo sembrerà però ad alcuni difficile, impossibile, ad altri un esercizio sterile, inutile, incapace di attivare risposte, ma credo che lei, da coach, possa raccontarlo meglio di me. Dobbiamo pensare di essere degli atleti che si confrontano con delle sessioni di allenamento diverse, alcune che sembrano più dure di altre, ma che possono essere affrontate, possono aiutarci a vincere, ma a condizione che... Assolutamente sì, qui ci aiuta proprio la ricerca su come pensano gli atleti. La ricerca ci dice che gli atleti che riescono a fare grandi risultati lo riescono a fare perché quando vedono il futuro nella loro mente, invece di immaginarlo roseo, che va tutto bene, perché le partite o le finali non vanno sempre bene, immaginano che le cose andranno anche male, ma alla fine sono ottimisti. Immaginano di poter andare avanti e di vincere. La cosa che io vedo di più nelle persone con cui lavoro e lavoro nelle aziende è una mancanza di speranza, e va da sé che se io penso che non c'è nulla da fare, non farò niente per farlo accadere, e quindi un po' contribuisco al problema. 800 24 00 24, quindi con l'aiuto del dottor Belotti cerchiamo di allenarci per superare questo momento difficile, per prospettare il nostro futuro, per immaginare uno scenario che, anche se difficile, può mettere in gioco delle nostre risorse, delle nostre capacità. Ma oggi ho chiesto aiuto anche al professor Giampaolo Perna, che voi conoscete bene, psichiatra, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto Menni ad Albese Concassano, professore all'Università di Maastricht in Olanda e di Miami, ma è anche fa parte della Fondazione Internazionale per il Sostegno della Ricerca in Psichiatria, una fondazione che mette oggi a disposizione i suoi esperti, che potete contattare sia in trasmissione naturalmente, ma abbiamo aperto una linea dopo la diretta, il numero lo trovate anche sul nostro sito, ne abbiamo parlato, ma ve lo ridò: dalle 12 alle 13:30 a vostra disposizione gli esperti della Fondazione Internazionale per il Sostegno della Ricerca in Psichiatria rispondono al numero 02 46 52 24 44. Se non avete occasione di scriverlo, potete andare sul nostro sito. Se non avete un computer a vostra disposizione, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24. Le ragazze del nostro centralino sono liete di darvelo. Le linee si aprono alle 12 per queste consulenze, se vogliamo dire, più private, mentre se volete condividere la vostra esperienza con noi e quindi fare rete, 800 24 00 24 aspetto le vostre telefonate. Professor Perna, c'è in questo momento chi si sente fuori gara, chi rinuncia perché non riesce ad andare avanti, getta la spugna, si arrende, si sente solo, finito. Ma la parola chiave è solo, perché molto spesso quando noi costruiamo qualche cosa, soprattutto gli imprenditori o comunque i grandi manager, tendono a farlo da solo escludendo un po' il mondo esterno, escludendo i familiari e così via. E nel momento in cui vanno in ginocchio si sentono soli. Io credo, ed è un'esperienza anche personale con persone che mi hanno chiesto aiuto in momenti simili, che l'elemento cruciale è ricordarsi che una persona non è sola. Ci sono i fratelli, ci sono i genitori, ci sono gli amici, e talvolta basta chiedere aiuto. Il non sentirsi solo diventa un elemento cruciale proprio per evitare di entrare quel loop di disperazione che inevitabilmente colpisce chi magari ha avuto successo per tanti anni e oggi si trova in ginocchio. Però c'è un momento in cui molti ascoltatori hanno scritto a Disperati Mai per raccontare appunto la loro solitudine e il fatto di non avere più energie. Ve ne leggo una tra tante. Vi scrivo semplicemente perché ho bisogno di dire che non ce la faccio più. Ecco, continuerò la lettera che ci offre tanti spunti. Ecco, esternare questo sentimento, questa sensazione, io vorrei leggerla con un coach e con uno psichiatra, perché questo è un grido d'aiuto. Ma che può in qualche modo aiutarci per dare delle indicazioni per chi, come il nostro ascoltatore che ci ha scritto, vuole comunicare. Questo è una richiesta d'aiuto, sembra una cosa disperata, ma in realtà, dottor Belotti? Allora, innanzitutto condivido pienamente quello che ha detto il professor Perna. Parlando sempre di sport, io ho la fortuna di lavorare con atleti o con allenatori di altissimo livello, uno dei quali ultimamente ha perso molte partite consecutive e era in difficoltà perché non era abituato a perdere. Quindi un imprenditore che ha avuto successo e l'ha fatto da solo, quando incomincia a non averlo più, non è abituato, sembra assurdo, ma purtroppo è così. L'allenatore di cui sto parlando, persona di altissimo livello, ha avuto il coraggio di parlarne con il suo staff e addirittura con i suoi ragazzi, con la sua squadra, e dire: io sono in difficoltà, stiamo perdendo, non riesco a capire perché, non sono abituato, ho bisogno del vostro aiuto. E questo ha rinsaldato un po' la squadra, lui ha fatto una grandissima atto di leadership, il leader che ha il coraggio di dire che è in difficoltà e quindi trova risorse che prima non trovava perché non le cercava. E la maggior parte delle persone che dichiarano di essere in difficoltà troveranno tante altre persone che gli daranno una mano perché sono state anche loro in difficoltà, o almeno apprezzano il coraggio di ammetterlo, di dirlo. Ecco, allora io invito i nostri ascoltatori a chiamarci, perché il dottor Belotti lancia questo suggerimento, ma vorrei avere da voi una risposta. Avete cercato in una situazione di grande difficoltà di fare rete, di cercare, di qualcuno vi ha aiutato? Avete sperimentato nella vostra vita una situazione di questo tipo e avete avuto una risposta positiva o negativa? Vogliamo parlarne, perché oggi vogliamo nel corso della trasmissione proprio fare una specie di allenamento e quindi così passo dopo passo capire quali possono essere le mosse da fare. 800 24 00 24. Continua la lettera. Non ho più energie fisiche per andare a cercarmi lavoro. Se non trovo chi mi fa lavorare, non credo che vedrò a lungo mia figlia. Professor Perna. Ma abbiamo tirato fuori il concetto della mancanza di energia. Allora, è importante ricordarsi che qualunque crisi non è una corsa a 100 metri, ma è più vicino ai 10.000 metri piuttosto che una maratona. Per cui è fondamentale che una persona si occupi del proprio benessere anche fisico, cioè dormire bene, mangiare bene, seguire i propri ritmi, permettono di avere quelle forze che ci permettono sia di combattere i momenti di crisi, ma soprattutto di cogliere l'opportunità. Perché il vero problema oggi è che una persona può essere così sfinita deprimita e scoraggiata che, pur avendo delle opportunità che arrivano, non riesce a prenderle. Allora, preparatevi, cioè nell'allenamento personale vuol dire mantenete un livello di efficienza fisica e mentale tramite piccole cose. Basta dormire bene, mangiare bene, basta svagarsi ogni tanto, quindi basta occuparsi di se stesso. Che risulta molto difficile quando la crisi avvelena proprio i nostri pensieri. Concludo questa lettera. Non spero più in niente, neanche se sono sempre stato religioso, ma ormai ho perso tutto. La fede, l'affetto dei familiari, la onorabilità, il rispetto da mia moglie e mia figlia. Non ho niente. Dottor Belotti. E questo è il problema. Pensare di non aver niente ci porta veramente a vedere nero. Io non so cosa è successo nella famiglia, ma una delle cose che farei è parlare chiaramente alla propria moglie, alla propria figlia, chiedere aiuto, e non chiedere aiuto per deporre le armi e arrendersi o per lamentarsi o per far la vittima, ma condividere per chiedere aiuto. Questa figlia sicuramente, anzi è possibile che sia arrabbiata o delusa, ma è il momento di fare squadra, tirare fuori il meglio, e magari se non lo troviamo all'interno della famiglia, perché la moglie e la figlia per qualche ragione hanno le loro ragioni, uscire, un amico, dirò una cosa banale, ma una volta si andava dal parroco e ci sono tantissime risorse, ci sono le associazioni che abbiamo parlato prima, ci sono tante persone che possono fare, dare una mano, sono preparate per farlo, hanno la formazione, la capacità, andiamo da loro. Le incertezze economiche comunque aumentano il carico psicologico legato all'incertezza, e così risulta in aumento il consumo di farmaci antidepressivi. È cresciuto, pensate, di oltre 4 volte in una decade. Sono i dati dell'Osservasalute. In linea con noi abbiamo la professoressa Roberta Siliquini, ordinario di igiene all'Università di Torino, fa parte della segreteria scientifica del rapporto Osservasalute. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Aumenta il numero delle persone che ricorrono a antidepressivi e psicofarmaci. È un dato che va letto in modo un po' puntuale, perché è la cartina tornasole di questa, no, di questo bisogno di far fronte a qualche cosa che è cambiato e che sentiamo invade proprio la nostra mente, i nostri pensieri. Certo, sì, come ha già ben detto lei, il consumo giornaliero, in dosi giornaliere, era più che quadruplicato nell'arco di 10 anni. Siamo a 35 circa dosi giornaliere rispetto agli 8 dei primi anni 2000. E ci sono delle evidenze di grosse differenze di genere, sì. Utilizzano antidepressivi molto più le donne che gli uomini, e anche un evidente trend nord-sud per quanto riguarda le nostre regioni, con un maggior consumo al nord. Al nord. Professoressa, aumenta però anche il numero delle persone che chiedono aiuto ad uno psicologo, ad uno psichiatra, quindi c'è questo desiderio di farsi aiutare. Sì, questi sono dati di una ricerca europea che un po' ha visto nel complesso tutti i paesi, sottolineando maggiormente come paesi che hanno vissuto la crisi già qualche anno fa, come l'Irlanda e la Grecia, siano un po' dei trascinatori di questo modello di richiedere aiuto correttamente a psicologi e psichiatri, anche se noi dobbiamo dire che probabilmente il dato è molto sottostimato, perché non tiene conto di tutti gli accessi privati. Certo. Tiene solo conto degli accessi pubblici. Professoressa Siliquini, io la ringrazio per essere stata con noi, quindi noi lavoreremo anche su questi dati insieme ai nostri esperti. Professoressa, buona giornata e grazie per essere stata grazie con noi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Professor Perna, antidepressivi, psicofarmaci, attenzione, questo è un... Diciamo che bisogna guardare la moneta da entrambi i lati, cioè da una parte non bisogna medicalizzare un problema di difficoltà o una crisi, d'altra parte bisogna ricordarsi che questo aumento dell'utilizzo dei farmaci e dell'utilizzo dei psichiatri è nato anche dal fatto che un po' lo stigma è diminuito. un conto, un tempo rivolgersi allo psichiatra piuttosto che prendere un farmaco era segnale di essere pazzi. Oggi si capisce che esistono tanti disturbi molto più semplici e aggredibili, quindi l'aumento non è un segnale per forza negativo. È vero che bisogna evitare l'eccesso opposto, che è quello di medicalizzare tutto, quindi basta che uno abbia una tristezza e subito si dà un farmaco. Questo è il compito e responsabilità degli specialisti, che riescono a distinguere ciò che è patologia e va curata da ciò che invece è una difficoltà di vita e va affrontata diversamente. Abbiamo in linea con noi Franco, 800 24 00 24. Grazie Franco, benvenuto. Grazie, grazie per la gentilezza, non ci speravo. Allora, la mia testimonianza non è una testimonianza, è un grido tremendo. Vedo solo demagogia anche da parte vostra, penso anche la vostra trasmissione, che sembra che vuole venire incontro, ma non affrontate il problema, la causa di questa crisi. Qual è? Ci aiuti lei, Franco? Primo, la globalizzazione senza regole. Avete fatto male, perché penso pure lei, perché lei ha un posto di lavoro assicurato. Avete fatto fallire tutte le imprese, dalle piccole alle più grandi, dando la libertà di commerciale alla Cina principalmente e ad altri paesi, senza regole per gli altri. Quegli altri poveracci, i cinesi, ma i governanti, i truffatori che stanno in cima. Cosa fanno? Franco, senta, allora, per sua informazione, io le devo dire, tanto che ha tirato in ballo me, che io ho un lavoro a tempo determinato, quindi me la gioco fino a quando mi tengono, e poi nel caso mi inventerò qualcosa. In questo momento, secondo me, non abbiamo bisogno di dare la colpa. La colpa possiamo individuare quali sono le cause, e questo non è il compito della mia trasmissione. Ci sono colleghi che sanno farlo molto meglio di me, più preparati: Oscar Giannino, Sebastiano Barisoni, Deborah Rosciani, Milan, eccetera. Noi oggi cerchiamo di capire come, stante così le cose, qualcuno, qualcosa, per una serie, il fato, ci ha portato qui. Adesso noi cosa facciamo? Ci arrabbiamo? Diamo la colpa sempre agli altri o cerchiamo di tirarci fuori da questo guano? Dottor Belotti, professor Perna, aiutateci voi. Io ho la fortuna di lavorare con tanti imprenditori, e spesso tra l'altro si rivolgono a me gli imprenditori che non hanno grossi problemi ma vanno bene e vogliono andare meglio. Ricordo che un paio di settimane fa, nell'ufficio di questo imprenditore che è incominciato dal garage ed è quotato in borsa oggi, si lamentava del fatto che il primo trimestre era molto inferiore alle sue aspettative. E io mi sono permesso stupidamente di dirgli: signor nome e cognome, sappia che io giro le aziende un po' di tutti i settori, sono tutti nelle stesse situazioni. Lui mi ha sorriso e mi ha detto: sì Claudio, ma questa per me non è una consolazione. Io voglio trovare una soluzione a questo problema, perché ci sono, mi ha detto, la centinaia di famiglie che dipendono dalle mie decisioni. Io non so cosa fare, ma sicuramente devo trovare un modo. Ora, detta così, forse è semplicistica, e forse lo è, però questo imprenditore illuminato cerca di analizzare la causa del problema, ma sapendo che non è in grado di risolverla, perché purtroppo non è colpa sua se il mondo è globalizzato, cerca di trovare una soluzione, sapendo che in questo momento nessuno ha una soluzione, perché la situazione è nuova, ma bisogna fare qualcosa. E noi ci stiamo confrontando proprio con una situazione nuova, ma anche un modo nuovo di la società ha preso un ritmo a cui noi, volenti o nolenti, non siamo abituati, e deve necessariamente cambiare il modo nostro di affrontare le cose. Prima si poteva anticipare, adesso forse si deve rispondere. Ma forse noi biochimicamente non siamo ancora pronti? Ma vediamo, stiamo parlando di una cosa molto importante, cioè c'è stata una fase del mondo, quella classica, in cui bisognava essere preparati un po' in tutto, no? Pensiamo al liceo classico, no? Sì. Mentre siamo poi evoluti recentemente in una fase di super specializzazione, cioè ognuno diventava bravissimo in un campo. Il problema è che oggi, con un mondo così veloce che cambia, essere super specializzati è un rischio. Perché nel momento in cui noi perdiamo qualche cosa in quel campo, non troviamo più il resto, non siamo pronti. Allora forse ritornare, e questo parlo di una prospettiva a lungo termine, perché non è questione di crisi di oggi, ma è questione di un modo di vivere che diventa sempre più rapido e fluido. Forse essere preparato un po' in generale ci permette un domani di essere più flessibili, più adattabili, e quindi riuscire a venderci, tra virgolette, e fare tanti mestieri diversi. Oggi è molto importante essere preparati e avere un po' di fiducia, anche perché ricordiamoci che il nostro cervello ha milioni di anni di evoluzione, quindi ha delle potenzialità enormi. Soltanto con la fiducia possiamo poi cercare di cogliere l'opportunità e crederci ancora. Giuseppe ci chiama da Ragusa. Giuseppe, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi chiamato, sono un vostro fedele ascoltatore. Per quanto riguarda l'esperienza delle persone che avete menzionato, io sono stato un dipendente, poi un libero professionista, un imprenditore e ultimamente sono un precario. Anch'io ho avuto problemi economici, nel senso che mi sono messo in gioco, ho aperto un'azienda, ho investito all'epoca 50 milioni. E poi alla fine ho dovuto, dopo 10 anni, lasciare ad altri, vendendo tutto. Il problema poi si è complicato andando letteralmente fuori, sono stato a Milano, dalle vostre parti tra l'altro, per lavoro, e insomma adesso mi ritrovo in Sicilia a fare un po' il precario. Questa è una scelta che ho fatto anche perché ho famiglia. Certo. Però capisco perfettamente i problemi degli imprenditori che hanno fatto scelte diverse. Tutto sta nella politica. La politica dovrebbe capire che, primo, deve diminuire la pressione fiscale, secondo, deve fare più controlli per le evasioni, per quanto certo. Io sono per pagare le tasse, però in modo equo. Sono troppe, troppe, troppe. Io ho pagato tutto in quel decennio, però le posso dire che forse guadagnava più un mio dipendente. Detto questo, adesso con il precario, lo stato di precario, diciamo che mi sono rassegnato, ecco, cercando di valorizzare di più alcune cose, principalmente la famiglia. E poi, insomma, io quello che ho fatto molta onestà, correttezza. Quindi lei usa la parola rassegnato, in realtà ha metabolizzato la situazione, il dottor Belotti, e ha puntato, no, sul cambiamento e sugli affetti. Giuseppe, essendo un esperto di linguistica, ascolto le parole che le persone usano, e Giuseppe ha usato per ben 3 volte la parola scelta, e nonostante la sua situazione possa sembrare peggiore di quella precedente, lui ha detto che ha scelto la sua famiglia, ha scelto l'onestà, ha scelto la correttezza, è tornato nella sua terra, dove sicuramente, io adoro la Sicilia, quindi lo immagino più felice sicuramente in Sicilia che a Milano, ha avuto la capacità, il coraggio di reagire in qualche modo, di gestire la situazione scegliendo. Lo so, è difficile, purtroppo gli anni 80 dove tutto era bello sono finiti. Adesso bisogna fare delle scelte e decidere cosa è più importante per noi. Voglio salutare Max che ci aspetta da Bari. Max? Sì, pronto? Buongiorno, no. Max. Buongiorno. La saluto e la porto con me a sentire i mercati, speriamo, e il meteo, e poi torniamo di nuovo insieme con Max che ci chiama da Bari con le vostre telefonate. Mi state chiedendo anche il numero per parlare con gli esperti dopo la trasmissione, dalle 12 a disposizione al numero 02 46 52 24 44. Mercati, meteo e poi di nuovo qui. Daily Lab, i consigli della salute. Essere e benessere. E siamo tornati insieme. Oggi una puntata speciale legata all'iniziativa Disperati Mai. Stiamo parlando con voi all'800 24 00 24. In linea abbiamo Max che ci sta aspettando da Bari. Max, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Eccomi. Ecco, io volevo dare una mia testimonianza. Sì. Sento sempre parlare questi ascoltatori che chiamano, oppure chi manda le lettere di disperazione, eccetera. D'accordo, io sono d'accordissimo, posso essere d'accordo sui momenti di... Però noi italiani siamo un popolo e siamo sempre stati abituati. Io mi ricordo fin da piccolo, anche mia mamma diceva... Dopo troverai un posto in banca, troverai un posto in alle poste, il posto fisso. E di fronte a certe difficoltà noi ci siamo sempre trovati spiazzati. Io sono un ex clochard. io mangiavo alla Caritas perché ho perso tutto, intestai una casa, avevo degli averi, eccetera, ad una fidanzata che pensò bene di sbattermi fuori. quindi rimasi senza niente. Allora io mi ricordo, quando mangiavo alla Caritas, io facevo sempre una specie di, come si dice, di riflessione, nel senso che mi ripetevo sempre dentro: questo è momentaneo, questo è momentaneo, questo è momentaneo, non è la mia fine, cioè non è per sempre, questo è momentaneo. Infatti da lì passai, dalla Caritas passai a dar da mangiare a quelli della Caritas, poi mi trovai un lavoretto, piano piano, adesso sono sposato, due figli, vivo a Bari per lavoro, anche se sono del nord, ma voglio dire, ne sono uscito. Max, che bella storia! Bellissimo. Mi piace anche quella, il potere della parola. Max continuava a dirci, ne parlavamo proprio prima di entrare in onda con Claudio Belotti. Questo è momentaneo, Max, stia lì, ma volevo passare la palla a Claudio Belotti e a Giampaolo Perna, che sono rimasti piacevolmente colpiti dalla sua telefonata. Ma è una telefonata importante perché ci dice che la crisi è qualcosa comunque di temporaneo, questo lo sappiamo per quanto duri. Allora nessuno può negare la situazione attuale, nessuno nega che le persone siano in grave difficoltà, però esistono altri valori importanti che devono essere portati avanti. A me viene in mente un importante libro di Mitch Albom che si chiama I miei martedì con il professore, che dà un messaggio di straordinaria potenza e ci permette di capire che esistono anche le piccole cose. Questa non è una cosa banale, se tutti noi fossimo consapevoli delle piccole cose, e questo vale per chiunque, ricordiamoci che metà del mondo, cioè la parte orientale, usa la consapevolezza delle piccole cose come un qualche cosa di importante. Non è dato per scontato che tutte le mattine noi ci alziamo e andiamo a fare una passeggiata, questo lo abbiamo scontato noi, ma se ognuno di noi si rendesse conto di tutte quelle piccole cose positive che ha, sicuramente tante cose diventerebbero meno pesanti. Max, vero, è la consapevolezza di essere chi siamo che ci dà la forza di reagire. Perché io non posso concepire che un imprenditore che ha avuto sotto di sé dei dipendenti, con tutto il caos che può succedere in un'azienda, e paga questo e paga quello, all'improvviso si tolga la vita. Perché io questo non posso concepire, perché ha una forza dentro un imprenditore che pochi hanno, e quindi secondo me è proprio la consapevolezza delle piccole cose, come diceva il professore, anche la mattina quando ci si alza, la consapevolezza che il latte che abbiamo sotto la tazza è stato frutto di una, certo, di una mungitura. Grazie Max, io la ringrazio per essere intervenuto, bisogna proprio cambiare la testa. La situazione lo impone, tante di queste cose sembrano, no, che stiamo raccontando, la consapevolezza delle piccole cose, cercare di allenarsi come un atleta, pensare, come ci diceva Max, che questo è solo temporaneo, ma quando una persona è disperata, sembrano frasi che buttate lì, che non, anzi, possono far arrabbiare, come stanno facendo arrabbiare alcuni nostri ascoltatori. Claudio. Vero, complimenti a Max. E Max ha parlato di sua mamma, dalla sua storia forse all'età che ho io, quindi probabilmente la sua mamma è nata quando è nata la mia, e si è ritrovata una guerra mondiale nel giro di poche settimane, pochi mesi. Ora non so di chi fosse la guerra mondiale, non era colpa sua, e ha dovuto trovare il modo di andare avanti con la sua famiglia. Purtroppo la vita ci porta ad avere sfide che noi non scegliamo e che non possiamo esimerci da affrontare. Cioè possiamo, ma l'alternativa purtroppo è da escludere. Quindi facciamo come Max, oltre a dirlo, pensiamo che è temporaneo e continuiamo a cercare una soluzione. Va da sé che se li continuiamo a cercare, prima o poi le troveremo. Facciamo un commento importante. La rabbia è una cosa importante ed è un'emozione forte che viene in questi momenti. Quello che però sappiamo è che mentre la rabbia, se viene utilizzata per superare un ostacolo, diventa energia, sappiamo anche che il rancore è uno degli elementi più dannosi per il nostro cervello e il nostro corpo. Quindi mantenere una rabbia senza poterla scaricare porta a una situazione che risulta essere molto dannosa e pericolosa per tutti noi. Quindi va bene la rabbia, ma il rancore no. Io voglio salutare Gianni Cavina, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. buongiorno a tutti. Lo state vendendo perché sui piccoli schermi è l'interprete della grande famiglia, interpreta Ernesto, il capostipite di questa grande famiglia che deve fare i conti con la crisi. Il successo è stato strepitoso, non solo perché tratta temi di attualità, ma sicuramente perché è ben scritta, perché ci sono attori, no, che sanno fare il loro mestiere, perché c'è dietro una regia molto, molto accurata. Gianni, che cosa vi dice tutto questo successo, oltre naturalmente al valore di chi ha scritto e realizzato questa fiction? Ma questo successo vero, perché è un successo vero, ci fa capire che dietro a tutto c'è una grande professionalità. Non dico che in altre fiction, che è una bruttissima parola che non voglio adoperare, non l'adopero, dietro gli altri lavori non ci sia la professionalità, qua ce n'è di più. Abbiamo curato molto la sceneggiatura con la regia di Ivan Cotroneo come sceneggiatore, voglio dire, perché la regia di Riccardo Milani è stata curata molto, molto tutto quello che è l'ambientazione dei film, perché sono 6 film da 1 ora e 40. Ecco, la differenza probabilmente è questa, la qualità, ecco. Perché abbiamo cercato di fare dei film da 1 ora e 40 e non delle fiction. Ecco, la qualità e la professionalità. Claudio Belotti avrà sicuramente sottolineato da linguista queste due parole, perché sono due parole che servono per avere successo anche ovunque, anche nel piccolo schermo, ma servono soprattutto nella nostra vita. A tra poco, dopo le informazioni sul traffico, torniamo insieme a Gianni Cavina, che uscirà, no, dal piccolo schermo, perché anche lui ci racconterà come nella vita di tutti noi, attori, artigiani, professionisti, piccoli imprenditori, commercianti, studenti, ci sia un momento in cui le porte ti si chiudono davanti e che ti sembra che le tue scelte ti abbiano portato in una pozza. 800 24 00 24, vi ricordo che dalle 12 gli esperti della Fondazione Internazionale per il Sostegno della Ricerca in Psichiatria sono a vostra disposizione al numero 02 4652 24 44. Più lento di così non posso dirvelo, il numero lo leggete sul nostro sito e potete chiederlo anche al nostro centralino. Essere e benessere. In linea con noi abbiamo Gianni Cavina. Gianni, nella vita lei fa l'attore, e nella vita, anche nella vita degli attori, che a noi sembrano comunque delle persone più fortunate, no? Perché le vediamo, quando le conosciamo è perché sono sul palco, sul grande schermo, e quindi sono arrivati, ma anche in queste, che sembra una professione che porti sempre successo, ci sono i momenti no. Assolutamente sì. Ci sono i momenti no e come, ma voglio dire, io però ascoltavo prima e non ero d'accordo su una cosa, che bisogna impegnarsi e pensare che tutto è provvisorio. Non è provvisorio per niente questa situazione, secondo me. Non è assolutamente provvisoria, è una situazione che purtroppo la vedo nera, insomma, mi sembra che possa andare avanti per molto tempo. Certamente anche nel nostro mestiere, è il mestiere più precario che ci sia al mondo. L'attore è un precario in assoluto. Assolutamente sì, perché passa da momenti di esaltazione e di successo a momenti dove il telefono non squilla, o se tu lo fai squillare dagli altri non ti rispondono. Ecco che allora questa precarietà si sente come, insomma, ecco. Parlavate prima dei suicidi, perché io non vi ho sentiti, voi sentite soltanto negli ultimi. Stiamo affrontando anche il tema di questi, ci sono in aumento e soprattutto ci sono sempre più persone, lo stanno scrivendo anche alle mail di Disperati Mai, che pensano di non farcela proprio più e iniziano. Abbiamo qua il professor Perna, che come psichiatra può raccontarci questo vissuto di una persona che pensa di non trovare più la forza e pensa che ha dei gesti estremi. Professor Perna. Beh, Sicuramente è il momento in cui tutto va a rotoli, si viene colti da quello che è uno stato di non speranza. Io credo che però l'elemento cruciale è sempre ricordarsi che una persona non è sola, questo è l'elemento centrale, perché è proprio la rete di persone che attorno, a cui ha voluto bene, a cui ha fatto del bene o che gli vogliono bene, su cui poter appoggiarsi. Ho visto persone cambiare totalmente un atteggiamento disperato e disperante in un atteggiamento di speranza una volta che ha riscoperto la forza degli altri. Però bisogna credere negli altri, non bisogna pensare che noi siamo tutto e gli altri non sono capaci. In realtà tutti hanno qualcosa da offrirci. Condivido pienamente, sì, la situazione non è momentanea, nel senso che passerà un momento, ci vorrà del tempo e forse non torneremo mai indietro, perché cambierà, ma questo non vuol dire che cambierà in peggio. E per chi pensa di non avere nessuno attorno perché non ha mai amato nessuno, ripeto, andiamo da professionisti che lo fanno per lavoro o per missione. Io voglio salutare e ringraziare Gianni Cavina, che potremo naturalmente guardare sul piccolo schermo con La Grande Famiglia, un romanzo familiare contemporaneo di grande successo e direi aggiungerei meritato. Grazie per essere stato con noi. Non ho detto neanche una parola, ma scusi, No, no, ma pensavo che lei dovesse... Noi siamo quasi in chiusura di trasmissione. Se lei ci rimane, se lei rimane con noi, io la tengo volentieri. No, si figuri, non voglio assolutamente... No, stia con noi, stia con noi. Mi faccia salutare il professor Girardi. Professore. Buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Abbiamo in linea con noi Gianni Cavina, che ha accennato e ha sottolineato un tema di cui si parla e si ha quasi paura di parlare anche nei giornali, e sono quello dei suicidi. Persone che arrivano un momento e dicono non ce la posso fare più. Al Sant'Andrea avete attivato una linea e questo è insieme a... ci sono anche altre associazioni che hanno seguito il vostro esempio. Ci racconta che cosa sta succedendo? Ecco, la nostra è una helpline che funziona attualmente 12 ore al giorno e nei prossimi mesi invece arriverà H24, e che si rivolge a tutte le persone che presentano un tipo di difficoltà tale da non avere più speranza di niente, come si diceva prima, la cosa che induce i cattivi pensieri è la perdita della speranza. Certo. La perdita della speranza, effettivamente, come diceva Giampaolo Perna, è assolutamente dipendente anche dalla rete di affetti che abbiamo come lavora con noi. Il problema è che attualmente le persone sole sono tante e effettivamente hanno pochi telefoni amici. La helpline ce ne stanno in tutto il mondo e si stanno organizzando anche in Italia. La nostra è pienamente funzionante. Certo. Difatti abbiamo avuto anche... Metteremo anche sul nostro sito il numero della vostra helpline. Professore, tra l'altro... È una linea calda in questo momento. Assolutamente è una linea calda in questo periodo, perché effettivamente causa la crisi il livello di disagio e di disperazione anche di persone che non hanno mai avuto contatti precedenti con psichiatri o psicologi è alto, insomma. Professore, che consiglio, che messaggio si sentirebbe di dare ad una persona che si sente disperata e che ha dei pensieri bui molto... Il consiglio è quello di parlarne assolutamente con qualcuno, di non tenerselo per sé, perché quando si entra nella perdita della speranza, quello è un loop che poi ci porta a cattivi pensieri. Quando perdiamo la speranza, praticamente non abbiamo più nessuna, non riusciamo più a pensare che il futuro ci possa portare qualcosa di buono. Quello che viviamo in quel momento lo proiettiamo al futuro a tempo indefinito, ed è questo il cattivo consigliere. Quindi parlate con qualcuno, possibilmente con qualcuno di esperto, ma anche con tutte le associazioni volontarie che in questo momento cominciano ad attivarsi. Metteremo l'elenco naturalmente sul sito. Professor Girardi, che tra l'altro è ordinario di psichiatria all'Università La Sapienza di Roma e direttore scientifico della Fondazione Internazionale per il Sostegno della Ricerca in Psichiatria, che da mezzogiorno è a disposizione per voi allo 02 46 52 24 44. Grazie per essere intervenuti, grazie a Claudio Belotti, a Giampaolo Perna, grazie a voi. Io vi aspetto come sempre domani, potete chiamare fino alle 13:30, i nostri esperti sono a vostra disposizione. Buona giornata. Essere e benessere.